Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Era un terribile pomeriggio completamente inanimato. Per vari giorni successivi erano apparse in distanza basse nuvole, masse bianche con volute cupe appoggiate sull'acqua, immote, quasi solide, eppure mutando sottilmente di aspetto ad ogni istante. Di solito verso sera svanivano, ma quel giorno attesero il tramonto del sole, che prima di affondare parve ardere e covare tetramente in mezzo a loro. Puntuali e fastidiose riapparvero le stelle sopra le teste d'albero, ma l'aria rimase stagnante ed opprimente. L'immancabile Ransom accese le lampade della chiesuola e scivolò come un'ombra verso di me. «Perché non andate giù a tentare di mangiare un boccone, capitano?» suggerì. La sua voce sommessa mi fece sussultare. Ero in piedi a guardare oltre la battagliola, senza dire nulla, senza sentire nulla, neanche la stanchezza delle membra, sopraffatto dal malvagio incantesimo. «Ransom», chiesi bruscamente, «da quant'è che rimango in coperta? Sto perdendo la nozione del tempo». «Da 14 giorni, capitano», disse. «Lunedì scorso abbiamo compiuto 2 settimane da quando abbiamo lasciato l'ancoraggio». La sua voce, sempre uguale, aveva un accento triste. Attese un poco, poi aggiunse: «È la prima volta che c'è speranza di avere un po' di pioggia». Mi accorsi allora che la vasta ombra all'orizzonte spegneva completamente le stelle, mentre quelle allo zenith, quando guardai in su, parvero brillare attraverso un velo di fumo. Come fosse arrivato, come si fosse arrampicato così in alto, non lo sapevo. L'aspetto era di pessimo augurio. Al rinnovato invio di Ransom scesi in saletta a tentare, come egli diceva, di mangiare un boccone. Non credo che il tentativo sia stato molto felice. Suppongo che in quel periodo io sia vissuto nutrendomi come al solito. Ma ora ho solo il ricordo che in quei giorni la mia vita si sostentasse di invincibile angoscia, come una specie di stimolante infernale che eccita e consuma al tempo stesso. È l'unico periodo della mia vita in cui provai a tenere un diario. No, non l'unico. Vari anni dopo, in condizioni di isolamento morale, misi sulla carta i pensieri ed i fatti di una serie di giorni, ma quella fu la prima volta. Non ricordo come accadde, né come mi vennero in mano taccuino e matita. Non è pensabile che li abbia cercati apposta. Credo che mi abbiano risparmiato l'anomalia di mettermi a parlare da solo. Lo strano è che entrambe le volte intrapresi una cosa del genere in circostanze in cui non speravo, come si usa dire, di uscirne vivo. Né contavo che le mie annotazioni mi sopravvivessero. Ciò indica che si trattò puramente della personale necessità di un intimo sollievo e non di un eccesso di egotismo. Debbo riportare qui un altro saggio, poche linee staccate, che mi appaiono oggi assai irreali, tratte da quanto scribacchiai proprio quella sera. «Sta producendosi nel cielo come una decomposizione, come una corruzione dell'aria che rimane più ferma che mai. Null'altro che nuvole, dopo tutto, che possono, oppure no, portare vento o pioggia. Strano che mi debba turbare tanto. Mi sento come se mi stessero per ricadere addosso tutti i miei peccati. Ma forse il turbamento sta solo nel fatto che la nave è sempre ferma, non governa, e che non ho da fare nulla che impedisca alla mia immaginazione di scatenarsi tra disastrose immagini del peggio che ci può capitare. Che cosa accadrà? Probabilmente nulla, o qualunque cosa. Può essere un furibondo piovasco in arrivo, e in coperta ci sono uomini con la vitalità, diciamo, di 2. Potremmo perdere tutte le vele. Abbiamo messo fuori tutte le vele fin da quando abbiamo salpato all'ancora alla foce del Menam, 15 giorni fa, o 15 secoli fa. Tutta la mia vita, prima di quel giorno memorabile, mi appare infinitamente remota, come un ricordo sbiadito di spensierata giovinezza, una cosa dall'altra parte di un'ombra. Sì, potremmo perdere benissimo tutte le vele, e ciò varrebbe come una condanna a morte per gli uomini. Non abbiamo a bordo forze sufficienti a infierire un'altra muta di vele. Pensiero incredibile, ma vero. O possiamo persino essere disalberati, ci sono navi che sono state disalberate da groppi di vento semplicemente perché non vennero manovrate con la rapidità necessaria e non abbiamo alcuna possibilità a controbracciare i pennoni. È come trovarsi con le mani ed i piedi legati ad aspettare che vi si tagli la gola. E ciò che più mi sgomenta è che rifuggo dall'andare sul ponte ad affrontare la situazione. È un dovere verso la nave, verso gli uomini che sono in coperta, alcuni dei quali pronti, a una sola mia parola, a premere l'ultima goccia di forza. Ed io mi tiro indietro, da una semplice visione, del mio primo comando. Ora capisco quello strano senso di incertezza nel mio passato. Avevo sempre avuto il sospetto di non essere all'altezza. Ed ecco la prova concreta. Mi tiro indietro. Non sono all'altezza. A questo punto, o forse immediatamente dopo, mi accorsi che Ransom era nella saletta. Qualcosa nella sua espressione mi colpì. Non riuscii ad indovinarne il senso e esclamai: «Qualcuno è morto?» Fu colpito a sua volta. «Morto? No, che io sappia, capitano. Sono stato nel castello di Brua non più di 10 minuti fa e in quel momento morti non ce n'erano. Mi hai messo un bello spavento», dissi. Aveva una voce piacevolissima. Spiegò che era venuto da basso per chiudere il portellino del signor Burns, casomai venisse a piovere. «Non sapeva che ero nella saletta», aggiunse. «Che tempo fa fuori?» gli chiesi. «Molto scuro davvero, capitano. Si sta preparando qualcosa di sicuro». «Da che banda?» «Tutto intorno, capitano». Ripetei senza ragione. «Tutto intorno. Sicuro», con i gomiti appoggiati sul tavolo. Ransom indugiava nella saletta come se vi avesse da fare qualcosa, ma esitasse. Improvvisamente io dissi: «Credi che dovrei essere in coperta?» Rispose pronto, ma senza alcuna enfasi o accento particolare: «Credo di sì, capitano». Mi alzai di scatto ed egli si mise da parte per lasciarmi uscire. Mentre percorrevo il corridoio, udii la voce del signor Burns che diceva: «Chiudi la porta della mia camera, per favore, cambusiere». E quella, un po' sorpresa di Ransom: «Subito, signor Burns». Credevo che i miei sentimenti si fossero induriti sino all'indifferenza. Invece scoprii che mi era penoso, come sempre, trovarmi in coperta. La tenebra impenetrabile stringeva la nave così da vicino che a stendere la mano fuori bordo pareva di poter toccare qualche sostanza ultraterrena. Se ne traeva un'impressione di terrore inconcepibile e di indicibile mistero. Allo zenith, rade stelle diffondevano una fievole luce sulla nave, senza alcun luccichio nell'acqua, mandando raggi staccati che foravano l'atmosfera divenuta fuliggine. Non avevo mai visto una cosa simile, tale da non poterne ricavare alcun indizio sulla direzione da cui un cambiamento qualsiasi sarebbe venuto. La minaccia si avvicinava da tutti i lati. Non c'era ancora nessuno al timone. L'immobilità di tutte le cose era totale. Se l'aria si era fatta nera, il mare, per quanto ne sapevo, poteva essersi fatto solido. Inutile guardarsi intorno, cercare di cogliere un segno, di congetturare quanto fosse vicino il momento. Fra poco, la tenebra avrebbe sopraffatto silenziosamente quel poco di chiarore stellare che cadeva sulla nave, e la fine di tutto sarebbe venuta senza un sospiro, un movimento o un qualsiasi mormorio, e tutti i nostri cuori avrebbero cessato di battere come orologi senza più carica. Impossibile scuotersi di dosso quel senso di fine imminente. La calma che mi invase aveva già il sapore dell'annientamento. Mi procurò una specie di conforto, come se la mia anima si fosse all'improvviso riconciliata con un'eterna, cieca tranquillità. In mezzo al mio dissolvimento morale sopravviveva intatto soltanto l'istinto del marinaio. Scesi per la scaletta sul cassero. Prima che vi giungessi, sembrò sparire il lume delle stelle, ma quando chiesi piano «Chi va là?», i miei occhi distinsero delle forme scure alzarsi intorno a me, pochissime e molto indistinte, e una voce parlò. «Siamo tutti qui, capitano». Un'altra subito corresse. «Tutti quelli che son buoni a qualcosa, capitano». Entrambe le voci erano tranquille e pacate, senza particolare tinta di prontezza o di scoraggiamento. Voci molto naturali. «Dobbiamo cercare di imbrogliare a segno questa vela di maestra», dissi. Le ombre dileguarono senza una parola. Quegli uomini erano lo spettro di se stessi e su un cavo non dovevano pesare più di quanto pesi un grappolo di spettri. E davvero, se mai si imbrogliò vela con pura forza spirituale, si trattò di quella vela, perché in tutta la nave non esistevano alla lettera muscoli sufficienti che bastassero a quella manovra. Per non parlare di quel povero gruppetto di uomini che eravamo in coperta. Naturalmente, presi parte attiva a quel lavoro. Mi tennero dietro, debolmente, di cavo in cavo, inciampando e ansimando. Faticarono come titani. Ci volle almeno un'ora, e intanto il buio universo continuava a non mandare alcun rumore. Quando fu dato volta all'ultimo caricaboline, i miei occhi, abituati all'oscurità, scorsero sagome di uomini esausti che si abbattevano sulle battagliole, si abbandonavano sui boccaporti. Uno era ripiegato sull'argano di poppa boccheggiante per riprendere fiato. Ed io ero lì in mezzo a loro, come una torre potente, inaccessibile all'infermità, sensibile soltanto al male della mia anima. Attesi un poco, lottando contro il peso dei miei peccati, contro il senso della mia indegnità, e poi dissi: «Adesso, ragazzi, andiamo a poppa a bracciare in croce il pennone di maestra. Più o meno è tutto quanto possiamo fare per la nave, e per il resto deve affidarsi alla sorte». Mentre salivamo tutti, mi venne in mente che occorreva mettere un uomo al timone. Diedi l'ordine con voce che era poco più di un bisbiglio, e silenziosamente, nel chiarore a poppa, apparve uno spirito rassegnato in un corpo divorato dalla febbre, una testa dalle occhiaie vuote che spiccò illuminata di contro alla tenebra che aveva ingoiato il nostro mondo e l'universo. Il braccio nudo sporgente tra le caviglie superiori della ruota sembrava brillare di luce propria. Mormorai a quella apparizione luminosa: «Metti la barra in mezzo», rispose in tono di paziente sofferenza. «In mezzo, capitano». Poi scese sul cassero. Non si poteva sapere di dove sarebbe venuto il colpo. Guardare intorno alla nave era come guardare dentro a un pozzo buio senza fondo. L'occhio si smarriva in profondità inconcepibili. Volevo accertarmi che i cavi fossero stati colti e non ingombrassero la coperta. Lo si poteva fare solo tastando col piede. Nell'avanzare con precauzione urtai un uomo che riconobbi per Ransom. Possedeva un'impareggiabile solidità fisica, evidente al solo contatto. Stava appoggiato all'argano del cassero e taceva. Fu per me come una rivelazione. Era lui la sagoma accasciata che ansimava per riprendere fiato e che avevo notato prima di salire sul casseretto. «Hai aiutato alla vela di maestra?» esclamai piano. «Sì, capitano», rispose la sua voce quieta. «Marinaio, che cosa ti salta in mente? Non devi fare cose simili». Ne convenne, dopo una pausa. «Credo che non dovrei». Poi, dopo un altro breve silenzio, aggiunse rapidamente tra due indiscreti respiri affannosi. «Adesso sto bene». Non riuscivo ad udire né a vedere nessun altro, ma quando parlai, un doloroso mormorio di risposta riempì il cassero, le cui ombre parvero spostarsi qua e là. Ordinai di cogliere tutte le drizze sul ponte, pronte per la manovra. «Ci penso io, capitano». Si offrì Ransom con quella sua intonazione naturale, gradevole, che ti confortava ed in un certo senso ti impietosiva. Quell'uomo avrebbe dovuto essere a letto, a riposare, ed era mio stretto dovere di mandarvelo. Ma forse non mi avrebbe obbedito. Non ebbi la forza di provare. Dissi soltanto: «Vacci piano, Ransom». Tornato sul casseretto, mi avvicinai a Gambrill. Alla luce della lampada, il suo volto scavato d'ombre appariva spaventoso, ridotto a un definitivo silenzio. Gli chiesi come si sentiva, ma quasi non aspettavo risposta. Rimasi perciò stupito della sua relativa loquacità. «Queste crisi mi lasciano debole come un pulcino, capitano», disse, ma conservando bene quell'aria che un timoniere non dovrebbe mai perdere, di badare solo al proprio compito. «E prima che io possa riprendere forza, quella febbre lì ritorna e mi mette di nuovo fuori combattimento». Sospirò. Non vi era lagnanza nella sua intonazione, ma le parole da sole bastarono a darmi un'orribile fitta di rimorso. Mi rese muto per un po'. Svanita quella tormentosa sensazione, chiesi: «Ti senti abbastanza forte per non farti prendere la mano dal timone se la nave dà indietro? Non è il momento di fracassare qualcosa nell'apparato del timone. Abbiamo già abbastanza difficoltà da affrontare, così come stanno le cose». Rispose con una sfumatura appena di stanchezza che aveva forza abbastanza per starvi attaccato. Poteva promettermi che non si sarebbe fatto portar via di mano la ruota del timone. Di più non poteva dire. Ransom apparve vicinissimo a me, passando dalla tenebra alla visibilità all'improvviso, come se fosse stato creato in quell'istante con la sua faccia calma e la sua voce piacevole. In coperta, disse, ogni cavo era stato sistemato, almeno per quanto si poteva assicurarsene a tentoni, non si vedeva assolutamente nulla. Il francesino si era piazzato a prua, diceva che in corpo gli rimaneva ancora dell'energia. A questo punto un lieve sorriso mutò per un attimo il disegno netto e fermo delle labbra di Ransom. Con quegli occhi grigi, seri, chiari, con quell'indole serena, era un uomo assolutamente impagabile, anima salda quanto i muscoli del suo corpo. A bordo era l'unico uomo all'infuori di me, ma io dovevo conservare la mia libertà di movimento, a poter far conto su forza muscolare a sufficienza. Per un momento pensai che avrei fatto bene a chiedergli di mettersi alla ruota, ma sapendo dello spaventoso nemico che era costretto a portarsi addosso, esitai. Ignorante com'ero di fisiologia, pensai che in un momento critico l'eccitazione poteva farlo morire sul colpo. Mentre questo macabro timore fermava le parole che già avevo pronte sulla punta della lingua, Ransom indietreggiò di due passi e svanì dalla mia vista. Provai subito un senso di smarrimento, come se mi fosse stato sottratto un appoggio. Mi spostai a prora via anch'io, fuori dal cerchio della luce, dentro le tenebre che si ergevano davanti a me come un muro. Mi penetrai con un solo passo. Così dovevano essere le tenebre prima della creazione. Si erano richiuse alle mie spalle e sapevo di essere invisibile per l'uomo al timone. Né io riuscivo a vedere nulla. Egli era solo. Io ero solo. Ognuno era solo nel punto dove si trovava. Ed era scomparsa anche qualsiasi forma. Alberature, vele, attrezzature, battagliole. Tutto era cancellato nell'atroce uniformità di quella notte assoluta. Il bagliore di un lampo sarebbe stato un sollievo. Fisicamente, intendo. L'avrei invocato, non fosse stato per il terrore del tuono. Nella tensione del silenzio di cui soffrivo, mi pareva che il primo schianto di tuono mi avrebbe ridotto in polvere. Ed il tuono era molto probabilmente la prima cosa che stava per sopraggiungere. Irrigidito da capo a piedi, respirando appena, aspettavo con un'ansia esasperata, terribile. Non accadeva nulla. C'era da impazzire. Ma un dolore sordo, crescente, nella parte inferiore del viso, mi fece accorgere che stavo digrignando i denti come un dissennato. Strano che non avessi udito il rumore che facevo. Ma non l'avevo udito. Con uno sforzo che assorbì ogni mia facoltà, riuscii a tenere ferma la mascella. Ciò richiese grande attenzione, e mentre ero così impegnato, cominciò a preoccuparmi il rumore curioso, irregolare, di deboli picchiettii sul ponte. Si udivano colpetti singoli, a due, a gruppi. Mentre mi chiedevo che cosa fosse quella misteriosa diavoleria, ricevetti un colpetto sotto l'occhio sinistro e sentii una lacrima enorme scorrermi sulla guancia. Gocce di pioggia, enormi, foriere di qualcosa. Tac, tac, tac. Girai su me stesso e, rivolgendomi con slancio a Gambrill, lo invitai a stare attaccato alla ruota. Ma non riuscivo quasi a parlare dall'emozione. Il momento fatale era venuto. Trattenni il fiato. Il picchiettio era cessato inaspettatamente come era cominciato e seguì un altro momento di sospensione intollerabile. Qualcosa come un giro di vite supplementare allo strumento di tortura. Non credo che in nessun caso mi sarei messo ad urlare, ma ricordo la mia convinzione che non c'era altro da fare che urlare. All'improvviso, come posso rendere l'idea? Ebbene, all'improvviso la tenebra si trasformò in acqua. Questa è l'unica immagine adatta. Un forte acquazzone, un rovescio di pioggia, quando sopraggiunge fa rumore. Lo si sente avvicinare sul mare e credo veramente anche nell'aria. Ma questo fu diverso. Senza alcun sussurro o fruscio preventivo, senza un tonfo e persino senza ombra di contatto, istantaneamente fu inzuppato fino alla pelle. Cosa non troppo difficile perché avevo indosso soltanto il pigiama. In un attimo mi si riempirono d'acqua i capelli, l'acqua mi ruscellò sulla pelle, mi riempì il naso, le orecchie e gli occhi. In una frazione di secondo ne trangugiai a non finire. Quanto a Gambrill, stava quasi soffocando, tossiva da far pietà con la tosse secca del malato e lo scorsi come si vede un pesce in un acquario alla luce di una lampadina elettrica. Forma elusiva, fosforescente, solo che lui non guizzava via. Accadde invece qualcos'altro. Entrambi i fanaletti della chiesuola si spensero. Suppongo che vi si fosse infiltrata dell'acqua, anche se non l'avrei creduto possibile, dato che erano ambedue perfettamente incastrati nella cuffia. L'ultimo barlume di luce dell'universo se n'era andato, inseguito da una sommessa esclamazione di smarrimento da parte di Gambrill. Avanzai a tentoni fino a lui e gli afferrai il braccio. Com'era magro. «Non fa niente», dissi. «Non hai bisogno di luce. Occorre solo che, quando verrà, tu tenga il vento dietro le spalle. Hai capito?» «Sì, sì, capitano. Ma mi piacerebbe avere un po' di luce», aggiunse nervosamente. La nave intanto era rimasta immobile come una roccia. Il rumore dell'acqua che scorreva giù dalle vele e dall'alberatura e che si riversava dal lato prodiero del casseretto era cessato di colpo. Gli ombrinali del casseretto gorgogliarono e singhiozzarono ancora un poco, e poi il silenzio totale, unito all'immobilità totale, proclamò che ancora non era rotto il cerchio del sortilegio che ci lasciava impotenti, in bilico sull'orlo di una catastrofe, annidata nel buio.